Italia, Italia, Italia. Sensazione strana, sono un musicista, ma non hai pane per l'artista. Italia, tu sei bella, Italia sei una sacra terra. Lavoro tu non hai, ma in fondo ci dai quel che hai. Mare, sole e terra, per te Italia, Italia, Italia, Italia.